con Danilo Chirico dell'associazione Da Sud, uno dei curatori del Restart Festival dal titolo Muro contro Muro. A Roma, all'Accademia Popolare dell'Antimafia e dei Diritti, dal 26 al 28 settembre 2019. Danilo, ben trovato. Ciao a te, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Raccontiamo tutto. Guarda, siamo arrivati alla quinta edizione del nostro festival che prova a tenere insieme creatività, impegno politico, sociale, cultura, educazione, scuola. Siamo arrivati alla quinta edizione, essendo il 1989, 30 anni fa, abbiamo deciso di prendere le mosse dalla caduta del muro di Berlino, dal trentennale della caduta del muro di Berlino, per parlare di vecchi e di nuovi muri. Quella caduta che ha segnato la nostra storia, le conseguenze che stiamo guardando ancora oggi, e tutti i nuovi muri, quello in Messico, quello in Ungheria, quello rappresentato dal mar Mediterraneo, i muri sociali, i muri culturali, i muri che impediscono alle persone di accedere alla formazione, alla scuola, alle opportunità lavorative. Proviamo a tenere tutto insieme, proviamo a farlo con la cultura, proviamo a farlo raccogliendo le testimonianze di persone che possono mettere in campo delle idee nuove, possono mettere in campo dei modelli nuovi, perché in quest'epoca di crisi in cui la gente si rifugia appunto dietro i muri, abbiamo bisogno di costruire nuovi ponti, ma i nuovi ponti li possiamo costruire soltanto se raccogliamo nuove idee. E per questo, insomma, abbiamo lanciato questa 3 giorni quest'anno. Come si articolerà questa 3 giorni? Guarda, partiamo giovedì mattina con l'inaugurazione di una mostra che è proprio 1989, curata non a caso dal Goethe Institute e dalla casa editrice Orecchio Acerbo, che è una mostra di illustrazioni e racconti sul muro di Berlino e sui tanti muri del mondo. E poi faremo un passaggio invece dal passato al futuro, perché faremo un pezzo del nostro programma che si intitola Muri Vivi, Muri Interattivi, per cui faremo un'immersione nella virtual reality. E nel pomeriggio invece iniziamo con gli appuntamenti, diciamo, di studio, di idea, di approfondimento con una lectio magistralis del professor Luigi Ferraioli sul XXI secolo, appunto come epoca dei nuovi muri, e poi raccoglieremo alcune testimonianze di alcune personalità che secondo me hanno qualcosa da dire. Nunzia De Capite della Caritas, Alessia Zabbatino del Forum di Disuguaglianza e Diversità di Fabrizio Barca, Antonella Inverno di Save the Children, Massimo Brai di Treccani, Marco Marcocci di Confcooperative Lazio. E la sera ci sarà il primo dei 3 eventi musicali con una cantautrice raffinata come Maria Antonietta, che farà un reading concerto su uno dei grandi muri del nostro tempo, quello che riguarda i diritti delle donne, non a caso intitolato 7 ragazze imperdonabili. Venerdì invece faremo un pomeriggio tutto dedicato agli adolescenti con la nostra web radio, Radio Da Sud, con il progetto Make Some Noise sulla letteratura e la musica elettronica, e con un'installazione interattiva con la costruzione di un muro attraverso il quale fare dei ragionamenti con i ragazzi del progetto Alta Frequenza, che sono i ragazzi dei centri giovanili di una parte di città con cui noi collaboriamo, che vivranno l'esperienza di vivere dietro a un muro. E poi ci saranno gli ospiti della giornata, il direttore dell'Espresso Marco da Milano, e faremo a seguire puntata speciale, una puntata live di La Storia Siamo Noi sul muro di Berlino insieme a Giovanni Minoli. La sera ancora un appuntamento musicale con Murubutu, che proverà attraverso le sue note e parole, proverà a fare una sintesi di questa giornata. Il sabato torniamo a lavorare la mattina con un omaggio a Leonardo Sciascia, un titolo che è quello più famoso legato al grande scrittore e intellettuale siciliano, che è Professionisti dell'antimafia. Insieme al professore Enzo Ciconte proveremo a ragionare sul futuro dell'antimafia, che l'antimafia ha un video, abbiamo scritto noi alcuni mesi fa, c'è bisogno di una nuova agenda, e proveremo a fare un ragionamento collettivo per capire quali possono essere i temi su cui lavorare nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Nel pomeriggio invece un altro omaggio, questa volta ad Alexander Langer, che fu costruttore di ponti appunto in un'epoca di muri, soprattutto nell'est dell'Est Europa, insieme a Pippo Civati, che ha curato un libro proprio sugli scritti di Alexander Langer. Poi i muri del del Mediterraneo, con diritto Valentina Calderone, Celeste Costantino e Matteo Orfini, che è uno dei pochissimi deputati a essere impegnato proprio sul tema immigrazione, che è stato uno dei pochissimi a salire sulle navi delle ONG che stavano facendo queste operazioni di soccorso in mare. E la sera il premio Restart, che quest'anno assegniamo a Domenico Iannacone, il giornalista di Rai 3 che tutti conoscono, dei 10 comandamenti, allo scrittore Sandro Veronesi, alla Casa delle Donne Luce Siesta, che come tutti sanno è a rischio sgombero, e alla Maria Zaccaria, che è un'adolescente di Casal di Principe che è riuscita a realizzare il suo sogno di avere una biblioteca nella sala del consiglio comunale del suo paese, quindi una buona pratica che abbiamo voluto premiare. La sera finiamo, diciamo, con il concerto di Emilio Stella, che è un giovane cantautore romano, insomma, che concluderà idealmente il nostro festival. Sarà anche l'occasione, il nostro festival, per provare a illustrare alcune delle attività che ci saranno nel progetto app da qui ai prossimi mesi, le nuove attività di cinema, il nuovo premio teatrale Rostagno, la nuova stagione teatrale, il nuovo festival Under, le nuove attività per i bambini e tutto quello che faremo sia per i ragazzi delle scuole, della nostra scuola, la scuola dove è localizzato l'istituto Enzo Ferrari, dove è localizzato il progetto, e le scuole del circondario del settimo municipio e per gli adolescenti di tutta la città. Sin da ottobre partiranno alcuni corsi, tutti rigorosamente gratuiti, la radio, appunto il virtual reality, il giornalismo, fumetto e tante altre attività. Ci dai tutti i riferimenti web per la programmazione? Sì, a parte sui social, insomma, trovate Restart, e poi ovviamente il sito dell'associazione Da Sud, www.dasud.it, e il sito di App, Accademia Popolare dell'Antimafia e dei Diritti, che è www.appaccademia.it. Quinta edizione del Festival Restart, dal titolo Muro contro Muro, a Roma, all'Accademia Popolare dell'Antimafia e dei Diritti, dal 26 al 28 settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento a Danilo Chirico dell'Associazione Da Sud, uno dei curatori di questo festival. Danilo, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie, vi aspettiamo.